ज़ुल्म का ज़माना बीतेगा रे बीतेगा, 有某个事里还要去来当歌星，以为回老几个眼子就在哪里 اسمعوني جيبوا شباب ومئات البنات نطلع الجنب للهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megafonix, Megafonix, Megafonix, la música vista del cielo. Trasmissione musicale e geopolitical. E allora buonasera a tutti, buonasera a tutte. Andiamo in India questa per la Megafonix di oggi. Babul pyare sajna sakhare suno meri maiya poch nahi main kisi ke sar ka na machhdhar mein naiya patwar banungi lehron se ladungi har mujhe kya bechega rupiya घर आऊंगी जिसकी फितरत में है रत समाई नहीं जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं ना कहने का सुन लो. Oggi vi propongo il racconto di una compagna femminista del Rajasthan, Munbar, e un'intervista fatta un mese fa. E questa intervista non ha esattamente per oggetto di darvi informazioni. Sappiamo tutte la situazione di tante donne in questo mondo, donne che subiscono i matrimoni forzati dalla loro prima età. E questa intervista non è neanche un esempio di miseria o di dolore di donne di un paese lontano. Ho scelto di non tagliare l'intervista perché volevo farvi vivere questo momento con Munbar, donna femminista della rete internazionale di difesa femminista, che ho incontrato in Rajasthan un mese fa. È chiaro che, come lo dicevamo già nell'altra Megafonix, sono numerosi ancora i paesi in cui l'età del matrimonio per le ragazze non è detto, come in Yemen, in cui non c'è un'età legale per essere sposata, o non è rispettato, come nel caso del Rajasthan, in cui le ragazze l'età è di 16 anni ma non è rispettato. è questo, ma volevo ricordare che non c'è veramente di paese lontano quando si parla di violenza alle donne, e le troviamo anche vicino a noi, al nostro angolo di strada, sono nelle nostre case. È questo. Dunque, questa cosa è la testimonianza, diciamo, di una conversazione tra tre. Mumbar, che racconta la sua vita, Divya, una compagna anche lei femminista, anche abbastanza conosciuta dai nostri microfoni, e che comunque a lei ha anche spesso fatto delle interviste. Lì non è un'intervista, una compagna, è più una conversazione a parte della sua vita. E ho trovato anche molto interessante questo pezzo, non solo sulla vita di questa donna, ma anche su come funziona questa società, come comunque lo racconta, come funzionano la gente tra loro. E questo. All'inizio c'è Divya che gli spiega che è il nostro progetto di radio e perché è interessante per noi di sentirla. तो यहाँ पे कई सारी औरतें मिलती हैं और वो हिंसा के खिलाफ काम भी करती हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के साथ सीखते हैं. तो हर शहर में अलग अलग संगठन है इनके, तो उसमें ये काम करती हैं. तो ये संगठनों में काम अपने जैसे अपन काम करते हैं, जैसे उससे थोड़ा अलग, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे कि संस्था है, इसको रजिस्टर किया, पैसे आते हैं, यहाँ वहाँ पे वैसा नहीं है. वहाँ पे ये लोग अगर 20 औरतें काम कर रही है ना, तो 20 औरतें अपना अलग से काम करती है. मतलब ये टीचर है सुबह, che dopo piano entreremo in questo momento molto emozionante e molto forte. इनसे पूछो क्या दियो गई. She said, "Are you married?" No, I'm not married. E chiede se sono sposata. No, non sono sposata. She's saying it's all good. Yes. C'è molto molto bene. Ma शादी करके हां, पर आपने अपनी मर्जी से थोड़ी किया था बचपन में. नहीं, तो जबरदस्ती थी बात. तो she's saying I'm regretting getting married. 6 साल की थी, मैं देखती थी. So she's saying, "Oh, I'm regretting getting married and all that." I said, "Not that you had choice, you were a child." She said, "Yes, I was 6 years old." 6 years old. Yes. E dunque lei dice che si rimpiange di essere sposata, e gli ho detto, non è che hai avuto molto scelta, eri una bambina. Ha detto, sì, avevo 6 anni. Ah, 6 anni. E io gli chiedo, ma è ancora così, è stato così per te, ma ancora così per molte ragazze? Vuoi dirmi un po' di più su questo? Vedrete che lei comunque ha molto voglia di parlare e che talvolta non vuole neanche lasciarci parlare, e questo è anche buffo. अपने अंदर ही काम करते हैं और सिर्फ औरतों के साथ काम करते हैं. और इनके इच्छा दे दी इनसे पूछो क्या दियो गई. शी सेड, आर यू मैरिड? नो, आई एम नॉट मैरिड. नहीं, शादीशुदा नहीं है. बढ़िया है. तो शी सेइंग इट्स ऑल गुड. यस, आई डो. पर रहना चाहिए, मैं फंसता गया शादी करके. हाँ, पर आपने अपनी मर्जी से थोड़ी किया था बचपन में. नहीं, तो जबरदस्ती थी बात. तो शी सेइंग आई एम रिग्रेटिंग. 6 साल की थी, मैं देखती थी. सो शी सेइंग, ओ, आई एम रिग्रेटिंग गेटिंग मैरिड एंड ऑल दैट. आई सेड, नॉट दैट यू हैड चॉइस, यू वर अ चाइल्ड. शी सेड, यस, आई वाज 6 इयर्स ओल्ड. 6 इयर्स ओल्ड. यस. It was like this for you, and it's like this for a lot of girls. Yes. She wants to tell me a little bit. पैसे लेके की थी मेरे पिताजी ने, तो पैसे लिए. हाँ. पैसे लेके करी थी पिताजी ने. She's saying her father took money to get her married off. एंड तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये ऐसा है यहाँ पे आसपास और लोगों के साथ होता है? बहुत होता है. इट्स वेरी कॉमन, ऐसे तो बहुत होता है गाँव में, बहुत होता है, बेच देते हैं लड़कियों को तो बहुत बेचते हैं. So she's saying the sell of girls really early, they just sell them off. And it's the same now than before? For maybe 30 years ago. पूछ रही हैं कि 30 साल पहले जैसा था वैसा ही आज भी है कि कुछ बदलाव आया है? अभी तो ज्यादा और हो रहा है. ज्यादा हो रहा है? और क्या. नहीं ऐसे जैसे लड़कियां पढ़ी लिखी है तो सामना करती है, मुकाबला करती है, पढ़ी लिखी है तो करती है, पर जो जैसे भी पढ़ी लिखियों के साथ भी ऐसे हो जाता है कि जैसे माँ बाप को नहीं कह सकती या तो फिर वो भागी जाती है लेके उसको, और भागती नहीं है तो फिर उनके दबाव में करना भी पड़ता है. क्या करें, ऐसा भी तो होता है ना थोड़ा. समाज की वो होती है ना थोड़ी, एक समाज में रहना बहुत कठिन की धारा है कि किस तरीके से रह सकती है लड़की, या फिर रह गई चले गई तो फिर वो अपनी मर्जी से अपने घर बार छोड़ दो, फिर उसका भी तो पता नहीं, वो भी तो धोखाबाज निकल जाता है ना. तो लड़कियां आजकल ऐसे भी डरती है. अच्छा, पर इतना वो पहले जितना नहीं है अभी तो. पहले तो जैसे छोटी को भी बेच दिया तो बेचती है, अभी तो अगर हो तो भी काफी सारी लड़कियां भक्की आ जाती है. महिला आयोग की कई सारी कहानियां घटनाएं आती है हमारे पास कि वहां पे चला गया कोई टीचर बूढ़ा था, उसके साथ माँ बाप ने ले लिया 5 लाख रुपए और बेटी की कर दी शादी. भाई अच्छा है, नौकरी वाला है, कर ले तू. तो लड़की तो पढ़ रही थी, भाग गई, मतलब वो तो वो कर रही थी, ये बीएड कर रही थी. उसी को देख लो आप, बीएड करने वाले को. फिर वो महिला आयोग में चली, फिर कविता जी, मतलब कविता श्रीवास्तव नहीं, दूसरी कविता जी विशाखा में थी. अच्छा अच्छा, चला सुरक्षा केंद्र में. फिर उसका वो केस लिया उन्होंने, फिर बचाया, मास्टर को बुलाया, उसको बुलाया, फिर बचा दिया, वो बचा दी. तो शी सेइंग दैट इट्स नॉट द सेम एज बिफोर, इट स्टिल गोज ऑन, इट्स जस्ट दैट दे डोंट डू गर्ल्स as young, but it still happens, and she's saying that it's really difficult to stay in society. वो तो 18 साल की, वो 50 साल 40 का था, 40 का था वो तो. वो बोला कविता जी तेरी बेटी के सम्मान है, तेरे को शर्म नहीं आई? हाँ. तेरे को बात करते भी शर्म नहीं आई क्या? क्या करे इधर के. तो she's saying in some ways it's the same, but I can't say whether it's better or worse, and sometimes I feel it's worse because there are some girls who are smart, who are educated, who resist. Yes. But even resisting is difficult, and I see some girls who are very well educated also getting stuck into this because either the parents don't speak up or she does not speak up strong enough or there's too much pressure. So she was giving a case of a girl who had done B.Ed, which is that she's almost graduate and she was 18 or 19 or something, and they were trying to get her, the parents were trying to get her married to a man who was a teacher who was 40 years old, like double the age. And then she complained to the women's commission and things. So she's saying that we have more and more cases of girls now trying to complain. So we know that it's not something that the girls want to accept, but a lot more girls are pressurized into it, even educated girls. At the same time, some girls run away because they can't tolerate the situation. And if they run away, which means they have to leave everything and run away, and they can never come back. And she's saying, I don't think of it also as a safe option, because suppose the boy she's run away with ditches her, then she has nowhere to go. Or, you know, she might get into trouble some other place. So either way, I think women are stuck in a very difficult place, and it's a really difficult society in which women have to survive. They have to be really strong. So, e allora il suo padre ha preso soldi per sposarla, e dunque risponde alla domanda: ma com'è secondo te adesso? Allora non è che come prima, ma continua, ma non danno le ragazze così giovani, ma succede ancora, e dice che è molto difficile essere in questa società. Dice, in un senso è la stessa cosa, e non posso dire se è meglio o peggio, ma ogni tanto ho l'impressione che è peggio, perché ci sono delle ragazze che hanno ricevuto educazione, che sono andate a scuola, che resistono, ma resistere è molto difficile. Ho anche visto delle ragazze che avevano molto educazione e che sono anche loro finite dentro perché non hanno gridato abbastanza forte, perché i legislatori non si sono opposti abbastanza fortemente, e le pressioni sono troppo alte. E stava dando un esempio di una ragazza di 18-19 anni, diplomata, i suoi genitori la volevano dare a un uomo insegnante di 40 anni, cioè due volte la sua età. e si è lamentata alla commissione delle donne, e dunque dice che abbiamo di più e di più dei ragazzi che denunciano. Dunque sappiamo che non è una cosa che le ragazze accettino, ma molte ragazze sotto la pressione lo fanno ancora, anche ragazze molto educate che sono andate molto a scuola. Ma nello stesso tempo alcune ragazze sfuggono perché non possono tollerare questo tipo di situazione, e se sfuggono significa che devono lasciare tutto e non possono mai tornare indietro. E dice: non penso che sia una soluzione molto sicura, perché talvolta partono anche con un ragazzo e dunque chissà che fine sarà, e o partono da sola e non hanno nessun posto dove andare, e o hanno problemi a quel che sia dove vanno. E dunque, anche se le situazioni sono molto, ma qui anche se le situazioni sono molto difficili, si tratta di una società in cui è difficile per le donne di sopravvivere, a cui le donne sono molto forti. Continuiamo ad ascoltare questa conversazione tra donne a proposito di come resistere alle violenze, a proposito dei nostri vissuti. ये ना अंग्रेजी उतना जानती नहीं है तो पर आप बताओ तो अच्छा है क्योंकि ये रेडियो सब मैं बताएंगी और कि कुछ इनको पूछना होगा तो पूछ लेंगी तो वो कह रही है कि वो आपकी कहानी सुनना चाहते हैं क्योंकि लगता है आपसे कि आप थोड़ी सी ताकतवर हैं और आपने कुछ अलग किया है इसलिए ठीक है पूछ ले हाँ मतलब कैसे पीयर से ही बताऊंगी हाँ पीयर से ही बता दीजिए पीयर में तो हमारे पांच तो बहन थी हमारे दो भाई थे और मतलब मेरी जो छोटा छोटा बताना आप हाँ छोटा शॉर्ट कट में बताऊं नहीं छोटा मतलब छोटे वाक्य ताकि मैं इनको तुरंत तुरंत अच्छा ट्रांसलेशन कर पाऊं अच्छा तो मेरी बड़ी बहन के साथ शादी मेरी शादी हो गई थी बड़ी बहन थी ना 15 साल की तो उसके साथ मेरी शादी हो गई थी एक ही टाइम पे सबकी एक घर में ही थी वो दोनों भाई थे अच्छा सो शी सेइंग दैट आई विल स्टार्ट माय स्टोरी फ्रॉम माय फैमिलीज house and she said we were five sisters and two brothers मैं आपका नाम भी बता दूं कि आपकी माँ ने आपका नाम कैसे रखा सो मनभर इज आई हैव टू से व्हाट हर नेम मींस पांच मैं हूं छोटी छोटी सो शी इज द यंगेस्ट डॉटर एंड द मदर केप्ट हर नेम मनभर बिकॉज मनभर इज यू नो हाउ डू यू से इट इन इंग्लिश माई हार्ट इज फुल और समथिंग लाइक दैट She said that because she had five daughters and now it was like, okay, my heart is full, I can't have more children kind of thing. So she was Manbhar. And so she says that my eldest sister was 15 and when she was getting married, I was married on the same day to the same family. Like, so both brothers are of the same family. Aur MC nahi aa rahi thi, tabhi 11 saal ki ko mujhe sasurar leke aaye. So even though she did not have her period or anything, they sent her to the... in-laws house when she was 11 years old. फिर मेरे ना जो पति जबरदस्ती करता था. Allora la domanda è di visto che lei è scappata di questa situazione di raccontare un po' la sua storia. E dice allora per raccontare la mia storia devo raccontare la storia della mia famiglia. Eravamo cinque sorelle e due fratelli. E poi prima devo spiegare che significa Monbar, il mio nome, il suo nome. Perché lei è la più giovane delle figlie e la sua madre l'ha chiamata così perché significa il mio cuore è pieno o qualcosa così, perché aveva già cinque figli e dunque il mio cuore è pieno significa non posso più avere figli. E dunque lei è stata Monbar. Diceva che la sua sorella più grande aveva 15 anni e quando lei è stata data per matrimonio Mumbai è stata data anche lei alla stessa famiglia lo stesso giorno le due sorelle ai due fratelli e anche se non aveva ancora le sue mestruazioni è stata mandata dalla casa della suocera e quando aveva 11 anni तो मैं पूरी रात सुनती नहीं थी वो ऊपर में नीचे ऊपर नीचे भागना नीचे वो मुझे बड़ा था तो मुझे पकड़ता था जबरदस्ती और फिर मेरे ना जो एक बार मावरी आ गई थी 14 साल की एक दो तीन साल बाद में आ गई थी मावरी तो पता नहीं कैसे मेरे को पकड़ ले मैं उसको ऊपर नहीं आने देती थी ऐसे मतलब पूरी रात हमारे पड़ोसी भी आते थे खाने के लिए कि गर्म फूटा इसको सोने तो दे बेचारी को गालियां निकालती थी इसको सोने नहीं देता पूरी रात ही और पूरी रात कभी मैं टांड पे छुप जाती थी कभी किसी के दूसरों के घर में छुप जाती थी कभी सास के पास हो जाती थी कभी वो ऐसे मेरे को बहुत परेशान किया उसी चक्कर में फिर मेरे बच्चा पता नहीं कैसे रहा उसको ऊपर नहीं गया ऐसे ऊपर ही रखती थी फिर भी बेचारे तो ये नहीं समझती थी पेट में क्या है कलबल कलबल क्या करता है और फिर समझी नहीं तो वो अंदर ही मर गया इधर उधर ध्यान ही नहीं दिया ना इधर उधर पेड़ पकड़ी फाकी अकेली पेड़ दुख रहा है फिर ऐसे वो हो गई मरी हुई हुई फिर मैं उसके पास ही नहीं जाती थी डरती थी कोई पांच साल में एक बार पकड़ लिया तो फिर बच्चे हो गए फिर हो गए ऐसे पांच पांच साल का अंतर है तीनों बच्चे So she's saying she was 11 and the husband would never let her sleep. He would drag her and things, and all night she would spend running up and running down and hide in the loft, or she would hide in someone else's house or sleep next to the mother-in-law. But the husband would always, you know, drag her and try to rape her. And she said, I tried really hard to not let him rape me, and I tried to resist quite a bit. And when she was 14, I think she had a period once or something, and she didn't know how it happened, because according to her, she never let him, you know, like rape her or anything. She resisted quite hard. And even the neighbors used to say, you know, let her sleep, and what are you trying to do? And they would try to, you know, control the husband, but he was quite a nuisance, and he would, you know, harass her all night to sleep with him. So she said she once had a baby when she was 14, and because she didn't know what happened and what's happening in the stomach, all this movement and all these funny things, she used to think, oh, I'm having a stomach problem, and have all kinds of medicines, and the baby was dead when the baby came out. And E allora dice che aveva 11 anni e il suo marito non lasciava mai dormire. Provava a tirarla fuori del letto tutte le notti. Lei si nascondava, correva giù, poi su, andava a dormire vicino alla cocciera. Ma il marito provava sempre a prenderla, a stuprarla. E dice, tenevo duro perché lui non mi stuprasse. E facevo di tutto per resistere. E quando ho avuto 14 anni ho avuto le sue mastruazioni, ma non so come è successo, perché non l'ha mai lasciato accapparla, e ho resistito molto molto duro, anche se i vicini gli dicevano di lasciarla dormire, o ma che vuoi fare, provava a fermarlo o la accogliava a dormire da loro. Lui era comunque senza senso. Dice che è stata incinta quando aveva 14 anni, e perché non sapeva che cosa succedeva dentro il suo stomaco, che cosa era tutto questo movimento e cose molto strane. Aveva l'abitudine di avere problemi di stomaco e di prendere medicini, e allora il bambino era morto quando è uscito. Allora, oggi nella Megaphonics di oggi stiamo ascoltando una conversazione con Mumbar, compagna femminista sposata molto giovane, che ci racconta la nostra storia. Come dicevo in introduzione, ho tenuto completamente la sua voce, perché non mi andava di coprirla, perché è importante che le donne hanno voce. सारे पिंजरों से पीछा छुड़ाए हम भी फिर है ना। तो फिर मैं इसमें वहां चला गया, मेरे को सास ससुर तो खत्म हो गए थे, फिर मेरे को लेके दूसरे गांव में चला गया। तो मेरा पति है ना जो मोसर किया था ना माँ बाप का, तो कर्जा निकाल दिया हमारे। तो वो मेरा पति क्या करता था, किसी को बैठा रहता था घर में कि भाई मेरे पति इतने से रिश्ता कर लो, मुझे पैसे दे दो। तो अच्छा, तो एक ऐसे एक चौधरी था सत्यनारायण नाम का, वो तो हमारी जिंदगी में आ गया था। फिर एक मिनट, वो जो पीछे आया था ना, So this is how it was, and she said, you know, even after the first baby died, I tried really hard to run away and to keep him away from me, but each time somehow he would catch me, and that's how I had kids, and all the kids have a 5-year gap between them, so it's because of that, that occasionally he would catch me. Then the in-laws died, and he took her to another village. And he had taken some loan or something, and to get rid of the loan, he would bring all kinds of people home and say that, oh, you can make a relationship with my wife and I will pay you, or you pay me, or something like that. Mm-hmm. You know, like almost like prostitution. Mm-hmm. So like that, he introduced her to one man called Chaudhary. Ecco, e dice che, sai, anche dopo che il primo bambino è morto, ho provato di tutto, di scappare via, di tenerlo lontano da me, ma ogni volta mi accappiava, e così che ho avuto bambino. Ma ho resistito abbastanza, perché guarda che tra i bambini c'è sempre 5 anni tra loro. Tra ognuno, ed è per questo che ogni tanto riusciva a capparmi. Poi è morta la suocera e lui l'ha portata in un altro villaggio, e perché aveva qualche debiti ha detto a tutti che potevano avere relazioni con la sua moglie e che li avrebbe pagati, o che loro pagavano qualcosa come la prostituzione. Così l'ha presentata a un uomo chiamato Chaudhary. वो चौधरी था। तो फिर मैं तो जानती नहीं थी पहले कौन से फोन थे, कुछ भी नहीं था पहले। तो मैं जयपुर यहाँ महिला एकाश में लग गई थी ना, तो मेरी बहन है उसको लेके आ गई, मैं विकलांग था वो थोड़ा सा, मेरा भाई एक बहन जा, तो उसको लेके आई, तो वो मेरा घर देख लिया। फिर वो आके हमारे जिस घर में रहती है, इसी कहता मेरी पत्नी है। तो मतलब उसको पैसे दिए नहीं दिए, उनके क्या बात हुई मेरे को पता नहीं, बट इस तरीके से वो हमारी जबरदस्ती रहने लग गया। फिर वो सभी करता हमारे साथ, तो सभी रहने लग गया। तो क्या करे, किसको कहीं मकान किराए का, मैं कह देगी तो मेरा पति नहीं तो भगो यहाँ से। फिर स्कूल में उसका नाम लगा के आ गया अपनी मेरी बेटी के। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं कटा के आई, तो वो दोबारा फिर गया। तो वो टीचर बोले क्या देखा, कोई तो कटातार को जुड़वाते। ओके, सो शी सेइंग, सो दिस, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी जॉइंड अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन सम अदर प्लेस, एंड वंस शी टुक सम रिलेटिव ऑफ हर्स फ्रॉम द विलेज to her house. So he saw the house, and this Chaudhary, whoever he was, he also found out that she lives there, and he started living in this house. Aaj uske naam chal raha hai, main BA kar li bichari ladki, uske naam chal raha hai. So she says, I don't know what conversation happened between my husband and this Chaudhary, but this Chaudhary decided that you are my wife, I'm going to live with you. So he started living in her house, and she said that because it was a rented house, I couldn't tell people that I'm living alone and he's not my husband. They would say, if he's not your husband, why are you living here? And they would throw her out. And this Chaudhary was very good with the daughter. So the daughter used to ask him for anything and he used to get it for her. So he went to the daughter's school and said, oh, I'm the father, and got his name written there. She went and got it taken off. Then again he went and wrote the name, and again she went to say, no, take that name off. And then the school said, you know, what is this nonsense between the two of you? Vidarupi ke maar peet karne lag gaya tha. Aur aise kehta tha, tere aur teri beti ko maar dunga agar ki to. And then so she's saying that main bhi boli thi, abhi jaisi hoti to sare ko main maar ke aise. हाँ, वो तो सच है. तो एनीवे, सो देन सो दिस गाय स्टार्टेड लिविंग देयर, एंड ही, सो द टीचर्स आल्सो सेड, व्हाट इज दिस नॉनसेंस दैट वन कम्स एंड पुट्स द नेम, अनदर टेक्स इट ऑफ, यू नो वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, यू पीपल डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. सो शी सेज, पुअर थिंग, द गर्ल हैज फिनिश्ड हर बीए एंड स्टिल यू नो दैट मैन्स नेम इज देयर, दो ही इज नॉट एक्चुअली द फादर. सो आफ्टर सम टाइम दिस मैन आल्सो स्टार्टेड ड्रिंकिंग, बीटिंग हर अप एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज क्वाइट अ horrible creature, because he followed her everywhere, and he said, I will kill you and your daughter if you यू नो लीव मेरा पैसा एवरेज थोड़ा थोड़ा के ले जाता था। मैं लोग जिमिश में काम करती हूँ, मेरे जयपुर वाले साथी बहुत मेरी मदद करी है, लोगों ने पढ़ाया लिखाया मुझे। At that time, she started working in Lok Jumbish, that women's organization which did which was doing on education. But they also had something on women's empowerment, and there she started learning things for herself and becoming a little bit more independent. At the same time, there was this man who was beating her up. So there were a lot of people who helped her at that time to get mm-hmm. out of the situation. Hmm. E dunque dice che a questo momento ha raggiunto le donne di un'organizzazione, poi ha preso la sua famiglia dentro una casa e questo Jodri allora ha visto la casa, era un contadino della zona e ha iniziato a vivere in questa casa. E non so che tipo di conversazione è capitata tra il mio marito e questo Jodri, ma questo Jodri ha deciso che ero la sua moglie e ha deciso di venire a abitare con me e dunque ha iniziato a vivere nella mia casa. E, ma perché era una casa affittata, non potevo dire alla gente che vivevo da sola e che quello non era il mio marito, perché avrebbe detto se non è il tuo marito perché stai vivendo con lui, e mi avrebbe cacciata. E poi questo Jodri era gentile con la figlia e la figlia gli chiedeva delle cose e lui le dava, ma anche andava alla scuola e diceva sono il padre e do il mio nome a questa ragazza, e dunque Mumbar andava e chiedeva di levarlo il nome, e ancora lui andava a cambiare il nome e lei andava a ritirarlo, e alla scuola il maestro ha detto ma questo non ha senso, una viene e cambia il nome e poi è ricambiato. Dovete decidere. Allora lei è andata e ha detto questo uomo non è assolutamente il padre e questo nome non esiste, è morto. Dopo un po' questo tipo ha iniziato a bere e a picchiarla, era orribile perché la seguiva dappertutto e diceva che l'avrebbe ammazzata, lei e la sua figlia, se provava ad andare via. A questo momento ha iniziato a lavorare per Lunga Birch, che è un'organizzazione di donne che fa educazione, ma hanno anche delle cose per rinforzare le donne, e lei ha iniziato a imparare cose per lei, a diventare più indipendente. Ma c'era nello stesso tempo questo uomo che la picchiava, ma ci sono state molto gente che l'hanno aiutata a uscire di questa situazione. Continuiamo a ascoltare il racconto di Mumbar, donna femminista del Rajasthan. फिर अबोर्ट तो क्या बताऊँ, फिर उसके बाद में तो उसने मतलब मेरा मकान लिया था, मैंने इकट्ठे पैसे मिले थे लोग जुमिश के, मिले नहीं थे ना पहले, बंद हो गए थे, फिर इकट्ठे मिले तो मैंने प्लॉट खरीदा, तो खुद के नाम करवा लिया, मेरे कागज घुमा दिया, ऐसे ऐसे सब कुछ किया, वो बहुत किया। फिर है ना देखो उसी दिन वो जैसे कागज ने घुमाया तो देखो भगवान को उसको लगा, भगवान मेरे साथ बहुत देता है, ये बात है। मैंने कभी भी किसी का कुछ नहीं किया पर मेरे को भगवान गोड़ साथ देता है मेरे, तो ये बात लफा हो गया था ना उसको, हो गया। फिर भी वो मेरे को दिया नहीं, मेरे को मना कर दिया। उसकी जीजा जी को बुला के बोल रहा है तो इस कागज पे साइन कर दे, रे कागज इनको दे दे और 30,000 ले ले, तेरा कर्जा चुका दी। मकान का कर्जा हो रहा था ना, बनाया था दो कमरे। तो फिर भरत जी को बताया मैंने, फिर भरत जी दो जन को भी, तो भाग गए उसके घर वाले, भाग गए। और वो हमेशा मेरी अपडेट रो थोड़ा कि आज गाड़ी लाता है, आज क्या लाता। उसने तो बहुत परेशान किया, इससे भी ज्यादा परेशान, इससे भी ज्यादा परेशान। ओके, सो फ्रॉम द फर्स्ट हस्बैंड द सेकंड वन वाज इवन वर्स। सो शी सेज दैट यू नो they didn't get salary for some time in the organization and suddenly all the salary came together. So with that she bought a plot, but this man took the plot in his name, lost her papers and said it's all mine. Then he said you pay you. Then he got some relative of his to come and say that you know you sign here and give 30,000 or something. All kinds of nonsense happened, but she says that God has always supported me because the day he did all of this he got paralysis so he couldn't move. And at the same time, the boss of this organization, Vishakha, that Mr. Bharat, he helped her a lot and he sent two people to her house. And so this Chaudhary ran away with his relative and never came back. E dunque dopo il primo il secondo era ancora peggio. Dice che non ha avuto stipendio nell'associazione per molto tempo e tutti i stipendi sono arrivati, e con questi soldi ha comprato una casetta, un piccolo pezzo di terra con diciamo 4 muri. Ma il tipo ha deciso di prendere questo posto al suo nome, ha perso il documento, ha detto è tutto mio, poi gli ha chiesto di pagare 30.000 rupi, tante cose senza senso sono successe. Ma dice che il Dio l'ha sempre appoggiato, perché dopo aver fatto tutto questo lui è diventato paralizzato e non poteva più muovere. E allo stesso tempo il capo di questa organizzazione, il signore Baretta, l'aiutava molto e ha mandato 2 persone nella sua casa, e quello Giorgi è andato via e non è più mai tornato. मैं कोई बात नहीं, कोई हो गया तो चलो, फिर भी उसने मेरे साथ दगा किया ना तो फिर भरत जी उसको गाड़ी करके घर छोड़ के आया। अच्छा, सो शी डिस्पाइट हिम बीइंग अ हॉरिबल मैन एंड बीटिंग हर अप वर्स देन द फर्स्ट हस्बैंड एंड एवरीथिंग, आफ्टर ही बिकेम इल शी हेल्प्ड हिम अ लिटिल बिट विद टेकिंग केयर ऑफ हिम, बट आफ्टर ही यू नो काइंड ऑफ चीटेड हर एंड एवरीथिंग, व्हाट दिस भरत जी डिड इज ही सेंट अ व्हीकल, put this man in the vehicle and sent him back to the village and said you go stay there, don't come back. और वो मकान वहाँ भी देखो फिर दोबारा आ गया है ना, चलता फिरता है वो, तो दोबारा मैंने सोच लिया था क्योंकि इसका मेरा नाम जुड़ा हुआ है मकान में, तो ये 420 करेगा, तो मैंने वो 11 में तुरंत बेच दिया उस मकान में। तो शी सेड दैट आई हैड अ फीलिंग दैट बिकॉज माई नेम एंड हिज नेम इज कनेक्टेड टू दिस हाउस, आई वॉज श्योर दैट दिस मैन वुड कम बैक टू डू समथिंग विद द हाउस. So as soon as he left, I sold that house. वो क्या कि जिससे कर्जा लिया था ना वो, ma anche se era un uomo orribile che la picchiava peggiore del primo marito, quando si era ammalato lei all'inizio ha preso anche più o meno cura di lui un po', ma poi che ha fatto il signore Barrette e che ha mandato un veicolo e l'ha messo il tipo dentro e l'ha portato via in altro viaggio e gli ha detto di non tornare mai. E poi lei si è detto, cioè ho avuto il sentimento che come il mio nome era legato al suo in questa casa, ero sicura che quest'uomo sarebbe tornato per fare qualcosa in questa casa. Allora, appena l'hanno portato via, io ho venduto la casa. Irade kar buland, irade kar buland, ab rehna shuru karti to achha tha, tu sehna chhod kar kehna शुरू करती तो अच्छा था, इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था, तू सहना छोड़ कर कहना शुरू करती तो अच्छा था, इरादे कर बुलंद सदा औरों को खुश रखना बहुत ही लेकिन सदा उसको ऐसे को कि कौन से पैसे थे, कोई लिखत में आ गया तेरे पैसे दिए जो लिखत में आ गया वो बता, कोई नहीं है, वो तो टेलर रहते थे यहाँ पे, तो दरअसल है ही नहीं चौधरी कोई. E noi passiamo un momento con Mumba. Okay, so the thing is, after he left, she discovered that this man had taken loan left, right, and center. Har and bartan pe naam hai saale ke uske. Loan. He had borrowed money from different people. So after he left, all kinds of people like, Jameen, oh, you owe us 1,000 rupees. You owe us 10,000 rupees. So she had this big loan of 30,000 from nowhere, and she felt that if I keep this house, even that will go. I will have nothing left. So immediately she sold the house off and cleared off everything. And so this man came back one day and said, who sold this land? This is mine, this, that, and the other. So the man to whom she sold, she also strategically did not sell it to the same caste of Chaudhary, to someone else. So he said, I don't know, your name is not there in any paper. I don't know who you are. All I know is there was no Chaudhary who ever lived in this house. I know there was someone of a tailor caste, and that's the person who sold it to me. This does not belong to you. Can you prove that it's yours? So then he got very angry, and she says that I met him one more time in the market, and he said, my land, this, that, my money. So she said, which money? You know, I am the person who put all the money to buy the plot. You have done nothing to it. There is no proof that you have given any land. But you have gone and put your name in the daughter's form in school. Mm-hmm. If I use that and, you know, put a case against you, I will take half of the land that you have in your village. If you want that, tell me, because I will do a case and I will take your land also. Then he just left her alone and he went away. तो मेरा प्लॉट का अगर तीसरी प्लॉट का हिस्सा ले रहा तो मेरे को भी दे दे फिर तेरी जमीन में से हिस्सा. तू किस बात का मांग रहा है भाई, तू कौन है बिना फालतू. तो था मेरे आदमी की गलती थी, इसीलिए हो गया सब कुछ, बेकार था. हाँ, सो शी ही अगेन वांटेड टू कम, सो शी सेड, या आई मीन हु आर यू, व्हाई विल आई गिव यू एनी लैंड. एंड शी सेड इट वाज वेरी स्टूपिड, एंड इट्स बिकॉज ऑफ माय फर्स्ट हस्बैंड दैट आई गॉट इनटू दिस सेकंड हॉरिबल सिचुएशन. सिलेंडर भी उसके नाम थे. हाँ. E dunque dopo lei ha scoperto, una volta che lui era andato via, che lui aveva molti debiti, e ognuno gli reclamava a lei, ah, tu mi devi 10.000 rupi, tu mi devi 5.000 rupi, e dunque si trovava con un debito di 30.000 rupi arrivato da nulla. E dunque ha pensato, se tengo questa casa mi la prenderanno tutto e non avrò più niente. Dunque ho venduto la casa subito e ho chiarificato tutto, e il tipo è tornato con chiedendo, ma chi ha venduto questa terra, che era la mia terra, la mia casa? E il tipo a chi ha venduto la casa è stato molto strategico, perché l'ha rivenduto a qualcuno di una casta diversa di Jordi. E dunque gli ha detto, ma non so, non vedo il tuo nome in nessun documento, non so chi sei, l'unica cosa che so è che non c'è mai stato un Jordi vivendo in questa casa, so che c'era qualcuno di un'altra casta e mi l'ha venduto, ma non come Jordi, questa casa non ti appartiene, puoi provare che ti appartiene? E dunque era molto arrabbiato, dice che lei l'ha incontrato qualche volta al mercato, lui sempre a dire, hai venduto la mia terra, la mia casa, i miei soldi, e lei gli ha detto, quali soldi? Sono io che ho messo i soldi per comprare questa casa, non hai fatto nulla per questo, non ci sono prove che hai dato, che hai dato una terra o i soldi, ma hai provato a mettere il tuo nome sui documenti della scuola della figlia? E se avessi denunciato a quel momento e utilizzato questo, io avrei preso la metà delle terre che c'hai nel tuo villaggio. Se vuoi lo racconto a tutti, e qualcosa ti denuncio e vedrai. E dunque lui l'ha lasciata. Ha ancora riprovato, ma lei gli ha detto, non avrai nessuna terra. Era molto stupida, ma era colpa del mio primo marito che mi sono ritrovata in questa seconda orribile situazione. Shole, tere sine mein hai shole, अजमेर आ गई, दोनों सिलेंडर लेके मैं अपने अपने नाम करके करा लेंगे, पर बाल को इधर में कुछ कर भी दे वो तो जमा कराया मैंने, यहाँ जमा करा दी और रसीद दे दी। बोला को उनका आना जरूरी है, मैं कि वो तो खाट में पड़ा है, मैं कि कैसे आएगा, वो तो आ ही नहीं सकता, कि आप कर दो तो यहाँ तो करवा लिए वैसे, वहां वो बोले कि नहीं वो आना जरूरी है, वहां फंस गई जोरदार। फिर बहुत मुश्किल हुई, फिर उसको कागज चाहिए, उस वाले कुछ तो प्रूफ लाओ उसके वो बीमार है, तो अब कैसे लाऊ, कोई कुछ भी नहीं उसके प्रभु तो मेरे पास। फिर है ना यहाँ दूधू में है, उसका गांव का एक लड़का रहता है, उसको मैंने कहा मैं कि वो तुम्हारे गांव का है ना सत्यनारायण जी, उसको कहना कि तेरे को सिलेंडर लेना है क्या, एक दे दूंगी पर एक बार आ जा सेन कर जा और मेरे सिलेंडर उसके नाम। फिर वो आया आया, फिर वो उसने है ना जो वहां पे कागज लेके आया उसको फ्री में दिया 1.5 सिलेंडर में के ले जा पर साइन हो गया, पर साइन हो गया, पीछा छूट गया, मेरे ना हो गया। फिर अच्छा देन ही सेड दैट द ओनली डिफिकल्टी आई हैड इज टू हैव द गैस सिलेंडर दिस टू कुक ट्रांसफर्ड इन हर नेम, सो इट वाज इन हिज नेम, सो आई गॉट इट शिफ्टेड टू अजमेर एंड एवरीथिंग एंड आई वेंट टू द अथॉरिटीज एंड सेड चेंज माय एड्रेस एंड दिस दैट एंड द अदर, दे डिड इट एंड दे सेड यस बट यू नो दिस मैन सिग्नेचर इज आल्सो नेसेसरी एंड शी सेड ओ ही इज यू नो इन बेड, so they said oh समझ नहीं थी ना, नहीं तो मैं देती नहीं, but you know you need his signature proof that he's too ill to come and blah blah blah something, so she said now what do? I have to have it in my name, so she found a boy from his village and told him that ask this Satyanarayan or whoever, does he want a cylinder, if he wants a cylinder he has to come and sign this paper. So that man came and he signed the paper and she says I had to give him one cylinder free, but then after that there was no link to this man, everything was finished, everything. E poi ha detto l'unica difficoltà che ho avuto è stata di ottenere il gas, questo perché il gas per cucinare, il gas al suo nome perché era il nome suo del tipo, e dunque è andata a chiedere alle autorità chiedendo di cambiare l'indirizzo, ma c'era bisogno della firma di lui, allora lei ha detto che lui era a letto ma è malato, ma sì, bisogno della sua firma di provare che è troppo malato per venire, bla bla bla bla bla bla. E dunque si chiedeva come fare, aveva assolutamente bisogno di avere questo gas al suo nome, allora ha chiesto a un ragazzo del villaggio, lui ha fatto finta, è andato, ha firmato, si sono arrangiati, poi dopo non ha più avuto niente da fare con questo tipo. मेरे नाम ले लिया मैंने उसके बाद बताओ आपने क्या क्या किया अब उसके बाद तो मैंने अभी फिर विशाखा में काम किया ना पहले तो लोग जी में महिला एकाश में साथ में काम किया जब भी तो फिर आगे बढ़ी थी नहीं तो फिर जब भी तो भगाया था उसको फिर विशाखा में आ गई विशाखा में आने के बाद मैंने ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी फिर और इनके स्वास्थ्य की जैसे शिक्षा की बहुत ली मैंने ट्रेनिंग पर सबसे बढ़िया मेरे को सेल्फ डिफेंस सही बात है मेरे को बहुत ही अच्छी लगी और इससे मैं बहुत आगे बढ़ी मुझे मैं वो लड़की का जो दिल्ली का कांड होता ना मेरे को इतना दुख हुआ उस लड़की को क्यों नहीं सिखाया मतलब वो बच जाती शायद मैं होती तो मैं कहती मैं छों को मार देती शाम को एक साथ ही ड्राइवर को छोड़ के बस उसको कहती चला गाड़ी आ तेरी भी कोई मार तो ऐसे मेरे को बहुत दुख हुआ उसे सुना था So she's saying that yes. E allora a questo momento ho iniziato a lavorare come Sati. Sati è come una, cioè sono le comunità di donne che sono, cioè o vedove o che non hanno nessun parte da essere come un po' delle sorelle, ma non è anche religioso. E dunque perché ero una Sati ero capace di dire di no e continuare nella mia vita e dunque dopo ho cambiato e sono andata in un'altra organizzazione che si chiama Visharpa e che fa anche lavorare le donne e così ha fatto tante cose e mi hanno aiutato a sviluppare me stessa e sono stata anche dentro l'autodifesa che mi ha aiutato tanto di muovere nella mia vita. E sai la storia della ragazza struppata uscita da Lille 16 dicembre l'anno scorso? Ero così triste perché ho sentimento che se avessi imparato autodifesa non sarebbe stata dentro questo e se fosse stata io lì avrei ucciso tutti tranne l'autista a chi avrei chiesto di portarci a casa. Had I been there, I would have killed all six except the driver. I would have made the driver drive me around and drop me off somewhere. So that's what she's saying. ये रीत रिवाज और परंपरा के नाम पे बेइंसाफी हमने सदियों से हिंसा को बर्दाश्त किया है काफी ये रीत रिवाज और परंपरा के नाम पे बेइंसाफी हमने सदियों से हिंसा को बर्दाश्त किया है काफी कोई थामे हाथ किसी का और फिर उसी पे हाथ उठाए Le canzoni che abbiamo ascoltato sono canzoni delle femministe indiane le parole dicono non rimanere in silenzio non chiudere, non abbassare la testa non chiudere le labbra devi parlare, devi gridare devi alzarti un'altra Megaphonics sicuramente ascolteremo ancora Mumbar che racconta come adesso da laboratori in scuole per ragazze e come lavora anche con altre donne su questa storia del matrimonio forzato dicendo che adesso non è che riescono a fermarli la cosa che più o meno riescono a fare è di fare che le ragazze non sono date all'altra famiglia prima di 18 anni e su questa musica vi lascio e vi dico a fra due settimane जमाना बीतेगा रे बीतेगा 有某个实力，还要娶来当波心，以为会捞几个燕子就在哪里做。 我有一个 blue bomb， 阿红桑，他比就光速还当。 اسمعوني جيبوا شباب وما قد البنات نطلع الجبل للهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف. Violencia engendra violencia. Si la tienen en su mesa cada día, nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics. La música vista del cielo. Trasmissione musicale e geopoliticale. Ai e bete, io ci no, in caro un blizzo istimala. Tanti per me ne ho fattini, quasi ai coi uftala. Eine Keller aus Sicht, wir sind lesbisch, haben Mut, haben schon so lange gewartet. Hilf uns von uns, nur die Wut. Lassiga, Lassiga, non sono pendita, ho scelto da me, qual è la mia vita. Mafia, tout unir, pour le même combat. Mafia, tout unir, pour le même combat. Mafia, tout unir, pour le même combat.